E io c'è Riccardo nel parcheggio, avanti Riccardo. Ok, scusate, vado in carica, ci sentiamo più tardi. Robert, ti ho mandato la foto di questo baracchino, di questo Midland, di questa stazione base. E vabbè, saluto a tutti, ciao Claudio, Gianni, Roberto e chi è eventuale in ascolto. Ci sentiamo più tardi, vado in carica. Ciao Riccardino, buona carica, ecco la nostra Robert. È bellissimo, un bel apparecchio. Io l'ho trovato, come te lo tu, non ho capito. Sì, devi mettere 78-574, c'ha tutto il coperchio bianco e il frontale nero, no? È bello, bellissimo. Sì, no, però se cerchi un altro modello 78-574, ti dà una stazione base enorme, con i fianchetti in legno. No, no, questo è bello, sembra, come hai detto tu, VHF Marino, io ne ho uno bianco di VHF Marino e col frontalino inclinato, non so se te l'ho fatto vedere, nero. Questo invece è dritto, c'ha tutto il coperchio bianco e il frontalino leggermente inclinato. Ho capito. Ma, vabbè. No, io ce l'ho per mago quello lì. Una buon'anima, poveracci. C'era una depressione, dopo un paio di mesi si è andato. È giunto un cancro e se n'è andato. Non vedo l'ora di andare in pensione, poveracci. Vabbè. Vabbè, riprendi, dai. Ehi, ma in Japan. Quelli ci sono, quelli onde sono maringiati. Guardate quello che c'è Riccardino già, il Midland 78-999 se ti piace, bellissimo questo. Non me lo ricordavo, l'ho visto da di sfuggita perché quando sono andato ero preso per il 430, non li ho visto da parte, questo è veramente bello. Com'è Midland? 78-999. No, comunque Claudio, stai uscendo alla grande, bellissima modulazione. Mi hai detto che microfono ci hai messo? Chiaro? Buonasera a tutti, Fabio Master da questa, cordialità. Ciao Fabio, ben sentito, c'è Claudio da Mulos e Gianni Doppio Room da Sassari, da quel di Sassari. Avanti, Doppio Room per Fabio. Ciao Fabio, ben sentito, cordialità anche a te, buonasera. Avanti a chi tocca. Anche quello che c'ha Fabio è un grande apparato, come si chiama? Wagner, così? Wagner Model 510, è tutto da tarare, però bella cosa sembra. Ma quella manopolone centrale è per il clarifer, così ti appare i kilohertz dello spostamento del clarifer? Esatto, tant'è che ogni volta mettiamo noi per dire i canali, vabbè. No, è bello perché scenografico e anche, diciamo, ti colpisce, non ne vedi molto di baracchini che hanno il clarifer con l'indicazione analogica dello spostamento. Sì, sì, tutto con la scala in alluminio, tutta una ruota bella grande, è bella al tatto anche perché la muovi con agilità, però senti che ha una leggera consistenza, no? Ti permette proprio di spostarti di 7 kg, per dire, cioè giusto il tantino per bella cosa, solo che è tutta da lavorare, qui ci saranno 20 giorni di lavoro per farla girare bene. Immagino, bello, lo fanno anche a Macchiato Roadstar in Svizzera, lo facevano, non lo fanno, perché non ci sarà più, si rimaneva dorato leggermente, però è bello, veramente un bellissimo apparecchio, mi piace, come piacciono a me. Ok, vediamo se Doppio Room ha visto il base di Riccardo. No, non riesco a trovare. È bello, bello veramente. E scrivi quel numero che ti ho detto, 78-999/999, veramente bello. Anche questo di coso, di Claudio, non è male, mi piace. Come si chiama? 78? È -999 Midland. Vediamo se riesco a beccarlo. C'è scritto Free Band and More Midland 78-999. Sembra un sommercamp, un HF per certi versi. E anche io ne ho due di trazione base con trasmitter, c'è cioè Rolls e il Patch. E Rolls è fiammante, il Patch è idem, perfetti. E poi vabbè, c'ho gli altri due, il top che ho dei baracchini e il Multico, quello è eccezionale. E poi c'ho quell'altro 3104 sempre base. Veicolari non mi piace, proprio io non li posso vedere, ne ho diversi ma non mi piacciono. L'hai trovato tu Davide? Me Davide fatto. No, come 78 base? Allora 78-999, scrivi CB base 78-999. Ah, scritto un bel bello Roberto, io ho capito 899, per quello non l'ho trovato. Ah, fitta è bellissimo, c'ha tre strumenti, molto bello, molto, mi piace, un bello apparecchio. No, no, è bello, poi è nero, sembra anche una HF per certi versi, c'è un'idea di un vecchio Yaesu, dai, di quei vecchi Sommercamp degli anni 80, inizio anni 80. Riccardino sta facendo tutta una collezione di questi apparecchi base, piacciono anche al padre, quindi ti puoi immaginare. Comunque, se volete vedere il più bel baracchino, che vabbè, non si può chiamare baracchino, perché quello è per certi versi meglio di un HF, come si chiama? Affanna. Il 4009 della, come si chiama? Ricordami il nome già. Superstar, dice. Superstar 4009, guardatevi quello e poi mi dite se ne avete mai visto di giocattoli del genere. Quello è interfacciabile al computer, c'ha tre strumenti tutti digitali, sembra la TS2000 della Kenwood, è quasi un sintonia continua. Io voglio cercarlo su internet, quanto si può avere, si può valere quella roba lì, secondo me non costa meno di qualche migliaio di euro nuovo con l'apparecchio. Oh cavolo, questa sensazione è veramente bella, poi c'è anche due versioni, con gli strumenti a sfondo bianco e nero. Nero è meravigliosa. Ma tu stai parlando con Riccardi? Scappa, questa Midland. In effetti ricordo mio vecchio Sommercamp. Se li togli quello altoparlante lì sulla rete, li metti i manopoloni a scatti per il cambio di banda, e forse li togli anche uno strumento. Sembra il mio Sommercamp. Proprio similissimo. E poi adesso Fabio, cercati il Superstar 4009 e guardati col baracchino. Ma non sai quanto costa, Robert? Non ne ho proprio idea, ma non l'ho mai visto, non so se neanche in Italia è mai entrato una cosa. Sì, 4009 o 6009, stai dicendo? Il 4009. Allora, il 6009 costa 169,99. Adesso guardo il 4009. Ah, te l'avete detto tu, un giocattolo. Se vedi quello, a parte che c'ha uscite per due antenne, puoi collegare due antenne, già quello ti dice di cosa stiamo parlando. L'interfaccia, l'uscita digitale per attaccarlo al computer, guarda, è una cosa da fantascienza. Sembra TS2000 della Kenwood. Tutto digitale, c'ha la scala, tre scale digitali a barre fluorescenti. Cacchio, ma se l'ho trovato, questo volevo da per 63 dollari, è 99. Quanto? Il 4009? Il 4009 B. Quanto sta prendendo? 63 euro, 63 dollari e 99 centesimi. No, forse è stato quello un altro apparato. Ti sto dicendo, lo conosco il TS2000, molto simile al TS2000 come digitali, cioè come strumenti. C'ha tre archetti di barre fluorescenti, per esempio. Poi guardalo solo come è costruito, ti metteva in testa. Sì, K, sul canale 40, qui sulla foto, con gli strumenti sulla sinistra del display, a misura rettangolare grosso, sfondo arancione, attacco 2, 4, 6 per il microfono sulla sinistra in basso, il tastino per la frequenza diretta e poi sulla destra i comandini per mic, gain, eccetera. Allora, devi scrivere Superstar 4009 base. K, è grosso, che c'ha, da una parte ci sono 3x4, 12, 12 tastini da una parte e altri 12 dall'altra, anzi, sì, 12 dall'altra parte, c'è il manopolone centrale, non capisco perché c'ha due ingressi microfonici, no, quella è la cuffia, sta facendo dove c'è il microfono, no, normale, le bande sono sulla destra in alto. Sì, no, scusa, non l'avevo visto ingrandito. E tu l'hai visto da dietro col baracchino? Hai visto che c'è tre display per il modulometro, wattmetro e potenza dei segnali ricevuti? Guarda, sto entrando da questo che dice che lo vende a 63 dollari. Forse ti stava per frontalino il book, ecco, ma questo è un apparecchio, se mi dici lo vuoi 200 dollari o 200 euro glieli sto dando correndo, è troppo bello, è spettacolare. Certo, c'è la barra di caricamento del sito, però non si muove la barra. Voglio cercarlo con calma, per vedervelo bene, poi non capisco tutti questi tastini che c'ha, io l'ho visto poi un'immagine da dietro, guarda se lo vedi da dietro com'è. No, solo da avanti, questo te lo stava vendendo, adesso sono un po' di immagini. C'è una foto dell'interno che si vede che è un baracchino, sì vabbè. Niente, immagini da dietro no, l'ho messo spento, anche spento il bellino. Comunque stanno prendendo in molti, eh. Guarda, c'è la versione argento che è spettacolare, col coso cristalli liquidi verdolini, e il coso e quei strumentini ce li ha rossi e verdi, colorati a colori, troppo bello, la versione argento satinata. Ma l'ho appena vista, lo sai che è comunque il nome di un vecchio modello, penso di 40 anni fa, la stazione è molto simile alla mia, cioè c'è l'orologio uguale sulla sinistra. Se scorri la foto lo trovi, un Superstar 4009, si vede che è adattato, 4009B, dal base radio eccetera, c'è lo stesso nome, però è la stazione base vecchiotta. Allora, se tu guardi il posteriore, ci sono due ingressi di antenne, c'è dietro, c'è l'attacco RS232 per il computer e poi c'è un connettore a 6 poli, tipo quelli vecchi antichi di una volta. E più c'è l'ingresso per la rete digitale di Cloud Ether. Cioè questo praticamente lo connetti direttamente in rete. E cosa fai invece, non si sa? Boh, non lo so, adesso lo sto guardando da dietro, guardati l'immagine che c'è da dietro. Cavolo, non lo trovo da dietro, lo trovo solo da davanti. Un altro che lo sta vendendo a $62, un altro. Vediamo se service manual, eccolo qua. Sì, molto bellino, questa foto è più grande, grigio, è molto, molto carino, sembra davvero un HF. Guarda, quello argento satinato, grigio satinato è bellissimo, ma poi c'ha tutte le funzioni possibili e immaginabili, c'ha una marea di... Ricorda per certi versi la tastiera del mio multicom della cosa, però questo è molto, ma molto più bello. Oh, le sto guardando le funzioni, c'ha un po' di funzioni che ho io, come sta, se qua le hanno messe a tastiera, perché io ce ne ho 8 tastini, c'ho la tastiera, c'ho, e poi c'ho tutte le altre funzioni. Cacchio, bello, veramente è bello, proprio spettacolare. Aspetta il coperto perché erano $63, roba. L'ho visto anche io, $63, ma deve essere frontali, il manuale d'uso. No, lo schema elettrico con i punti di regolazione. Questa radio secondo me non costerà meno di $1000, secondo me. Capo, lo faccio anch'io. Ho visto una stazione che ho avuto, che me la sono ricordata, l'ho vista qua, che si chiama sempre Superstar 4009B, centrale digitale, altoparlante sulla destra, che cazzo di stazione è? Io questa l'ho avuta proprio, tipo la... l'idea è quella della Saturn. Sì, questa è Saturn Ecom, la versione del Saturn Ecom è marcato Superstar 4009, quest'altro nero che stai dicendo tu che c'ha l'altoparlante a destra, è uguale a Saturn Ecom, preciso. Cazzo, è vero. Eh sì, ma se uso la butta, solo che purtroppo... No, sono entrato sul display, cazzo, ne ha pochi di tassini, di lucette e di funzioni. Guarda, è bella anche la spenta. Beh, Claudio Ramuro non c'è ancora. Ah, sono, beh, ma non vedi la foto col manichetto abbassato e lui un po' rialzato, tipo K. Col manichetto? Dopo c'è il supportino, il supportino rimane un po' rialzato, no? Ah, sì, sì. Tipo K proprio, tipo, se l'aveva avuto un K così, no? No, 70 non è così, però la versione più bella è quella argentata. Poi c'è un altro, aspetta, c'è un altro 4009, però questo è ancora più vecchio, che c'ha l'orologio, forse è quello che stai dicendo tu. K, cosa stavo dicendo io? Si chiama sempre 4009B e c'ha l'orologio che penso che c'è lo stesso, perché se lo apriamo capace che scambiamo della mia partner, l'orologio è proprio così, uguale, identico. E poi c'è l'altoparlante a sinistra, però questo. Sì, invece la mia ce l'ha a destra. No, questo è diverso, tutto diverso da Saturn Ecom, è un'altra radio, perché il microfono ce l'ha a destra e l'altoparlante ce l'ha a sinistra, sopra l'altoparlante c'è l'orologio, poi c'ha due strumentini, uno a fianco all'orologio, c'è il canale, il numero di canale digitale e poi un altro strumento a destra. Questo non lo conoscevo, anche questo è $66 per il manuale d'uso. Cappa, lo schema elettrico, ho trovato la foto da dietro, due attacchi dell'antenna, un RS232 e poi c'è un DIN, five pin, un jack e una free port di quelle classiche sinistro, destro e massa, che però non so cosa sia, però è una porta d'acqua. No, è bello, guarda, non per dire, secondo me è più bello che ho visto fino adesso. Veramente, lo farà anche la Sabo col baracchino. Bella cosa, certo che girando le immagini si vedono anche altre cose, eh. Qui uno si rifà gli occhi, perché hai messo la parola giusta. sicuramente c'è anche lo spaccato, il concerto a completo è molto semplice, tutto di nuova generazione, componentistica al minimo, pochi componenti ma super sofisticati, non ce n'è di cose resistenti e cose varie, tutto microprocessori. Ok, vediamo doppio rumbo se c'è ancora. Continuate a parlare, sto facendo lo. Comunque lo cerco bene su internet, è un apparecchio che ne vale la pena secondo me, magari poi in trasmissione è una cagata tipo il Multicom che ho io, che c'ha una ricezione da paura, c'ha tutto il possibile e immaginabile, però in trasmissione devi adattare a un bel microfono. Non ho provato a voltare perché c'ha l'autopulli come connessione, gli ho messo un M600 ed esce discretamente, ma niente di più a livello di una da 48, un po' di più di quando è senza amplificazione. Il tuo lo vorrei vedere finito, quello che c'è tu, il Wagner. Quello è un grandissimo, bello veramente. Ma guarda, mi dà soddisfazione in ricezione. Gli ho beccato l'alimentazione dello spaghetto di amplificazione, gliel'ho alzata, praticamente ho controllato il transistor d'ingresso e gli ho alzato l'alimentazione a un terzo di quello che possono ottenere, perciò ho raddoppiato il guadagno. Adesso tengo l'RF gain a 5, cioè a metà, e in realtà è come se fosse a 10 quando è normale. E quando alzo da 5 a 10 mi fa l'amplificatore. Furioso, perché ricezione è micidiale. Sì, anche il mio, ti ripeto, il Multicom è superiore a 140 e chi dica al contrario glielo porto avanti e facciamo le prove. 140 nuovo, non mi hanno messo vergine, facciamo le prove e vediamo chi è più rumoroso o chi prende più colpi. È eccezionale in ricezione, poi non gli manca niente, è un po' plasticoso, nel senso uno che non gli piacciono quelle cose che sono fissati con i baracchini in metallo, frontalini, questo è tutto plastica, però è abbastanza moderno come concezione. Poi non esiste il discorso di segnali saturi, per dire con il Pace, Royce, alla 48 quando arrivano segnali vicini che sparano potenza devi attenuare l'RF gain, questo niente, non riguarda nulla. Poi c'è tarato, gli strumenti sono tarati a velo, arrivano a 9,60, non è il classico 9+30, io ho fatto le prove di confronto con gli altri apparati più evoluti, sono perfetti gli indicatori, poi non gli manca niente, c'ha tutto, e sembra c'ha 2000 canali, perché prima di accendere tocchi due tasti, non so quante bande escono, quasi una sintonia continua, va da 25 a 32 mi sembra che arrivi. È bella apparecchio, quella ricezione è importante, c'è poco da fare, è un po' come la pompa di calore, no? Il condizionatore, non la valuti in raffreddamento, la valuti in riscaldamento, io ho sempre questo pallino, e fino a quando la pompa non la vedo girando in riscaldamento, come dico io, non la consiglio neanche per il freddo, e così per i baracchini, è importantissimo che ricevano perfettamente, poi per uscire uno già si arrangia, non saranno cambiare due esistenze, un finale, toccare un trim, mettere un microfono, da lì già si esce sempre e magari anche bene, ma con la ricezione non puoi farci niente, manco se ti metti a cambiare filtri, manco se metti roba particolare, se ci metti filtri esterni, se metti preapplicati, non c'è niente da fare, quando riceve bene un apparato lo puoi anche buttare dalla finestra. Sì, no, questo ti posso garantire, è silenziosissimo, pulito, poi è molto selettivo, non prendi splatter, guarda, non sto scherzando, no, perché ce l'ho io, questo non è mai stato modificato, perché ci sono delle modifiche che lo fa diventare un 15 watt omologato comunità europea, per cui è proprio un apparato perfetto. L'unica cosa è che devi pulire un microfono, devi fare delle prove, non mi sono mai divertito, però in ricezione non ho ancora visto un baracchino a quelli di lì, e ti garantisco ne ho provato tantissimi, perché è molto molto selettivo, non piglia colpi, e la cosa più importante, non satura, perché la maggior parte dei baracchini, e parliamo di quelli di vecchia generazione, gli ultimissimi non lo so, tutti saturano, quando c'hai uno vicino che ti tira un po' di potenza, satura lo stadio d'ingresso, invece questo è eccezionale. Ci sono un sacco di forum su questo apparecchio per modifiche, per renderlo un pochettino più forte in modulazione, ma non l'ho mai toccato, lo lascio stare così. Ah, guarda, vabbè, ma andando, se tutto esce male, si può aprire leggermente, sì, so magari per ritoccare, ma si ritoccare leggermente. Adesso questo che stai ascoltando ai tempi fu alzato a 17 watt, pensa a quel poverino. Quando l'ho rimesso a mano e l'ho sistemato prima di riuscire a rientrare un po' sulla resistenza, tanto il mese scorso, due mesi fa, la prima cosa che ho fatto l'ho fatta 5 watt. Torna come ieri, là che è meglio, capito? Qualche ritocchino leggero si può fare per comodità, per tutto, però che non influenza alcuni stati. Aprire l'RC può essere pericoloso, se la alzi appena e ti dicono radio 5, allora la cosa cambia. Ok, no, quello è vergine, non è stato mai toccato. C'ho le scatole originali, c'è stata tutta una studia di quel baracchino, che l'ho raccontata l'altro giorno, non so se l'hai sentito, e questo l'aveva spedito il figlio, di nascosto del padre, un sacco di storie, mi ha telefonato il padre, non so come abbia fatto ad avere il mio numero, perché il mio numero su internet non c'era, su eBay, ero registrato, ma il numero di mica te li dà, non si sa come abbia fatto, questo lavorava in provincia, non mi ricordo, sicuramente era un pezzo grosso, è riuscito a avere chissà da quale giro strano il mio coso, da qualche ministero o qualcosa, il mio numero di cellulare. Sa, di fatto mi ha chiamato il padre e mi ha detto se glielo restituivo, te l'ha fatto di nascosto, ha detto no, questo ormai è acquistato e me lo tengo. Oioioi, bella storia. Ma guarda, non ho mai capito io come ha fatto ad avere il mio numero di cellulare, questo qua. Stiamo parlando, questo ce l'ho 15 anni più o meno, dai, 14 anni ce l'ho col baracchino. Nuovo, chiamatemi, se tu lo vedi non ha un graffio. Non so, ma non ho mai capito perché mi hanno telefonato al lavoro, tra l'altro mi hanno telefonato, non era cellulare, sto dicendo fesserie, sono un attimino alla provincia di non so che cosa, mi ha detto, l'ufficio del dottor, un attimino glielo passo, vedi che cazzo è questo qua, mi chiama, sono il dottor non so che cosa, il mio figlio ha spedito senza il mio consenso con questo apparato, io ci tengo tanto, ho detto, ah, mi dispiace, io lo prendo, io restituisco i soldi, guarda, non si preoccupi, anche il disturbo, ho detto, no, io me lo prendo e me lo tengo. Hai capito Roberto, non ha mollato l'osso, eh? Ma poi l'altro giorno, un 15 giorni fa, un radioamatore lo stava cercando, non so cosa ne dovesse fare, perché c'è scritto cerco urgentemente questo Midland, non mi ricordo come si chiama, Intec Multicom, non mi ricordo manco il modello che si chiama, perché c'è un apparecchio recente, secondo me li usano per qualche cosa, li modificano per fare qualcosa, per andare nei 6 metri, non lo so. Ma guarda, sinceramente l'elettronica moderna poco mi fido, preferisco baracchini, ma non solo baracchini, anche apparecchi radio un po' da tassi, c'è più serietà e tutto. Guarda, l'esempio ce l'ho qui sul banco, ho sistemato proprio stasera un autoradio Alpine che era ferma tipo 25 anni, logicamente a cassetta, cavolo come sono in altri, Roberto, non ce n'è. Ehi, aspetta, facciamo riprendere un attimino a Claudio da Muro, se poi ti dico riguardo l'autoradio, avanti Claudio. Sì, sicuramente uno che riesce a risalire come cacchio fa e poi a cercarmi al lavoro, non riesco a capire come ha fatto a rintracciarmi, No, stavo parlando, io ho un autoradio, anzi ne ho due, per essere precisi, un Aiwa, te lo ricordi gli Aiwa, gli autoradio? Certo, ne ho uno anch'io. Allora, quello che si ribalta è il frontale, che c'è l'equalizzatore, tutto servoassistito, te lo ricordi? Ne ho montato, penso, una quindicina, quel tipo che c'era all'Eliciclo, un tempo che ero al negozio di articoli di quel tipo là, li ho comprati tutti io. Allora, c'è la versione con l'equalizzatore e poi c'è la versione con il controllo di tono alti e bassi, che tu lo apri l'autoradio, c'è il lettore di cassette, è tutto digitale. La cosa bella di quell'autoradio è tutto servoassistito, cioè tu lo avanti, indietro, l'autore verso, è tutto servoassistito. Io ce l'ho ancora conservato quell'autoradio perché è uno spettacolo, c'aveva un suono, una qualità di coso, poi c'aveva il tasto locale distanti, io l'avevo provato anche in ricezione quando sono andato nell'imbarco, ho fatto una prova e te c'aveva se satura proprio sotto il ripetitore, che c'erano trasmettitori da paura, mettevi, vabbè, con il tasto normale no, già saturato, allora l'ho messo col tasto locale. Sto dicendo, era una cosa spettacolare quella radio. E poi ne ho un altro che me l'hanno regalato, non so se tu ti ricordi quel Panasonic che era il top di gamma con telecomando, stiamo parlando negli anni 90, è uscito tutto touch screen, tutto con con tutte le funzioni possibili e immaginabili, però touch screen, con le, quello schiacciavi, si apriva, si ribaltava motorizzato e c'era la cassetta dentro. Cioè, ma tu nel frontale non vedevi niente, era un po' delicato da usare quel touch screen. È stato il primo autoradio touch screen del mondo. Campagna me lo ricordo, sì. Dopo quell'idea la puntava Kenwood. Sì, sì, è detto bene. Quella parecchia era talmente sofisticata, infatti un sacco di gente si lamentava che non era abituata la gente a toccare i touch screen, schiacciavano, rovinavano, c'era una complicazione unica. Quello che c'ho io è fiammante, l'avevo anche mio fratello che l'ha voluto mettere nella macchina, poi alla fine si è detto, non me lo metto più, è troppo, perché lui aveva con le mani sporche, quando sei in officina, cose del genere, ha detto, mister, me lo rovini, guardate, e c'ha un bel, ma solo il telecomando è una cosa, molti televisori non ce l'hanno, ed è una bizza pesante, grosso, un bel baracchino, adesso è ridicolo, perché te ne ha regalato uno l'altro giorno, proprio un navigatore, tutti gli ingressi possibili e immaginabili, telecamera, se lo vedi di spessore sarà 3 cm, col monitor a 7 pollici, è una cosa ridicola, non va in nuda, lo vedi, è tutto, c'è tutto lo vale, però c'ha tutto, le cose possibili e immaginabili, Bluetooth, schede per il navigatore che è estraibili, ci puoi mettere schede esterne, ingressi per non so cosa cavolo, ci puoi mettere un stesso bus, c'ha tutto. Costa 87 euro nuovo. Ecco, ho avuto quello là su Camper Ford. Comodo perché giri la chiave, c'è lo schermo, poi ho fatto il tastino comodo vicino al cambio, allunghi il dito per fare retromarcia e lo schermo appare tutto, però Robert ha un ricevitore che lasciami perdere, ha una dinamica che lasciami perdere, ha un'amplificazione che è meglio da trattare, cioè va bene il camper perché ci ho messo un sub, lì ci ho messo anche le 500 euro di casse pari, mi rende, davvero non so cosa fare, ne ho messi lì, magari un pochino l'ho recuperato, però se cambi la radio ci metti questa Alpine vecchia di 30 anni che c'è sul banco, cambia il panorama, cioè nel parabrezza inizia a vedere cose diverse, capito? Sì, assolutamente d'accordo, ma poi mi fanno ridere 45 watt di RMS perché Mindy, se poi fa misurare ci avranno 5-6 watt effettivi con l'auto, così ne un altro nel camper, infatti questo me lo tolgo quello lì, però il tuo cos'è? Doppio DIN di Veta che esce il frontalino, lo schermo, così è il tuo. Registrato il Brook. Allora, quello che ho nel Ford è monodin, un DIN, one DIN, come lo accendi esce fuori lo schermo, invece logicamente nel Ducatino, nel camper Ducato ci ho messo linea 900S dell'Alpine, quello è già dual DIN, è una cosa seria, e cambia, roba, cambia un bel. Ma questo fa ridere, perché tu lo prendi in mano e dici, cioè non c'è niente, peserà un po' di più di un telefonino, cioè, display, però ti posso dire che il display funziona bene, anche la telecamera è abbastanza luminosa, non è di quelle telecamere opache e cosa, bellino, adesso devo mettermi, lo sai che cosa, se me l'ha regalato, non diciamo il nome, è una persona che sta qua dentro, devo cercarmi l'antennino, perché non gli hanno dato l'antennino? Antennino GPS? Eia, devo trovare un salato dai cinesi, nessuno ne ha, adesso devo provare la GBC. No, te lo busco io, appena vado a lui già te lo prendo a radio, te lo colleghi, adesso non mi ricordo se il cavo è intero o no, però demolendo la macchina con un mio amico ho tolto un dual DIN che tra l'altro si imballa di RAM, ho tolto anche il resto, l'antenna e qualche cavo che c'era, e mi ricordo che c'era in mano, me lo devo ricordare quando sono a Turchia, lo prendo e così non spendi niente, non stai a cercare il resto che ci mette 3 anni a arrivarti, insomma le solite cose, aspetta che facciamo entrare il bambino, la mascotte, che è il bambino, prego ricattino. Io non sono il bambino, mettiamolo in chiaro, il ragazzo semmai. Comunque ciao Fabio e ciao Roberto a tutti gli eventuali in ascolto, se mi sto dimenticando qualcuno. Caffa, allora Roberto, Fabio, poi c'è Chiodo Arrugginito a Monetta da Muros e poi Gianni Double Room, anzi li scopriamoli dai, togliamoli fuori. Gianni, a te il mic. Sì, io stavo giocando con l'arco, mi sto facendo un paio di partite con l'arco, mentre vi ascolto sto giocando, ma adesso lo metto da parte perché scarico il telefono. Ma poi la saluta Riccardo, a questo primo giro. Chiodo. Forse ho sentito, ci sei Claudio? Sì, adesso è il periodo delle zanzare, a chi punge? Già, diciamo io me le scampo abbastanza, forse ho sangue puffinoso e non li bia, c'è mie figlie, cacca, mie figlie le fanno in sangue. Ok, ma c'è anche la connessione SMA per attaccarlo, Fabio. Ma ci dovrebbe essere completo, cosa avvento con lo signorino? Dovrebbe essere completo, così mi ricordo. Poi non lo so se magari frugando c'è qualcos'altro. Di certo non ti posso dare quello dell'Alpine, il mitico Alpine con lo schermo che esce, hai capito qual è il modello? Tipo la Big Pioneer. Cazzo, stiamo parlando di altre cose. Non confondiamo un radione con un impianto Wi-Fi, quello è il rapporto che stiamo parlando. A me mi fanno ridere quando sento questo potente, così, queste cose. Ho visto delle prove proprio strumentali su internet di amplificatori cinesi di questi 150 watt, ti scrivono 1000 watt, potenze assurde, poi li provano in questo istituto scolastico industriale di non so di dove era, in Toscana. Hanno fatto proprio come prova, il professore ha detto prendiamo questo qui e calcoliamoci tutte le misurazioni strumentalmente nel laboratorio, il coso di elettronica era. Ma capisci, si sono messi a ridere le potenze dichiarate di quelle effettive, ma c'è cose per dire, il rapporto da 1 a 10, se uno apparecchio ti dava un watt e loro dicevano ne davano 10, ma alla fine misurate erano 4 watt e spiccioli, questi non so quanto dichiaravano di potenza in questo amplificatorino, cioè questo autoradio. Roberto, il problema è che le calcolano MPMO, che serve di picco, poi raddoppiano per la potenza musicale cosiddetta, come faceva lo standard EEC DIN prima, no? Saltando l'RMS, logicamente, dove possono scrivere quello che vogliono. Posso dirti che con l'amplificatorino Sony che avevo nell'altra macchina, dato per 50 T50 T50 T50, ho fatto ponte su due canali, poi c'erano tre canali per muovere un sub della Boss, avrei dovuto avere 120 watt RMS e mi ha preso fuoco il sub che sto passando per San Pantaleo, mi sono fatta la nebbia in macchina, mi sono dovuto fermare, buttare, staccare subito la scatola del sub, tirarlo giù. Si vede che non erano 120 watt quelli, Ma lo immagino. Ma io poi lo stesso di amplificatori, quando ce l'avevo adesso me l'è passata la voglia, ce l'ho sempre conservati io. C'ho un americano, un amplificatore l'avevo preso a Bologna, un Craig, non so se tu li conosci, faceva anche baracchini perché nominato. Se tu vedevi questa cosa era una cosa enorme, tipo il Zappico, ti ricordi Zappa, mi vengono in mente i panori qua. Molto simile. Se tu vedi questo amplificatore, cazzo, potenza dichiarata e poi potenza effettiva. Dichiarata era 50x4, effettiva misurata sulle prove di suono 75x4. Cioè, gli americani si tengono un bel bassi, per dire il Marantz che c'ho io, il quello grosso quadrifonico di casa, dichiarati 70x2, effettivi 105 watt per canale. Ci sono le prove, se le vuoi vedere, io ho quello grosso, il top della serie, diciamo, integrata, non finali. Era il top della linea, di quella linea della Marantz. Così l'altro amplificatore, il Revac, o cioè il Technics, quello che dichiarano 110 per canale, ne ha dato più di 135 per canale, quello grosso. E il KK, io ho l'Onkyo, che è un compatto CDMD estinto, che è grande però quanto un lettore CD, per intenderci, mi sembra che costi tipo un 3 milioncini al tempo, è dichiarato 50 watt per canale, su due canali, dopo che mi ha costato un paio di casse anche piuttosto carine, l'ho dovuto parcheggiare con le Indiana Line, che sono certo che tengono 120 watt RMS, se no non ce l'ho perso, perciò non sono 50 watt, ma pare più serio una cosa, le scatole sono un'altra, vabbè, c'è poco da girarci intorno. Vabbè, ti volevo chiedere, quel microfono che stavano vendendo a 50 euro, com'era, non mi ricordo la marca, quello che bisognava mettere il cavo, com'era la marca? È già stato venduto, purtroppo quello era un affare mondiale, era l'imitazione dell'Adonis V908, però marchiato Proxel, identico come apparecchio, non so poi se la capsula cambia qualcosa, però esteticamente identico, lo stavo vendendo 50 euro senza le connessioni li trovi su internet, le fanno pagare dai 20 ai 25 euro, se no si possono fare, l'unica cosa è crimparlo, però l'ho già venduto Riccardo. No, per dirti, perché ho chiesto a Babbo, ce l'abbiamo la crimpatrice? Se ce l'hai, ma l'hanno già venduto, il problema è quello. No, dico, perché non sapevo cos'era, gli ho chiesto, ma praticamente che cosa dovresti fare, inserire il cavo? No, diciamo, la parte che attacchi all'apparato è uguale a quella che c'hai tu, nella parte dove attacchi al microfono, che tutti hanno il cavo che c'è di lì, ci sono tre connessioni, tipo quelli delle reti internet, diciamo, e c'è quegli spinottini con diversi poli, con 8 fili sottili sottili, che vanno messi a crimpare, c'è una specie di mollettina che blocca, sono trasparenti, non so se le viti, nei computer dietro ci sono, per la rete internet, uguale, però il problema è che devi saperlo fare, quel lavoro non è semplice, per avere la crimpatrice, però se non riesci a farlo, mi abbracco. Babbo lo sapeva fare, che ce l'aveva, e ce lo siamo fatti scappare. Avanti Giovanni, c'è anche Fabio, io Riccardino, Gianni Opium che gioca col figlio, e Claudio Lamuro, che poi lo facciamo riprendere. E fai tu Giovanni e poi Claudio. Ho capito, ascolta, no, voglio parlare l'attimo con Riccardino, qualche secondo, puoi passare sul 13 per non disturbare un attimo gli altri Riccardino, un attimino. Sì, certo, ciao Giovanni, adesso mi guardo la tabella del 13, sì, ok, adesso vado. Andiamo un attimo. Ok, Claudio, vai tu per il mic. No, le zanzare sono maledette, cacchio, le ho ammazzato qualche volta, mi è capitato di ammazzarle piene di sangue, ma quelle grosse grosse, le schiacce tutte piene di figura, di cosa ti portano di infezione. No, c'è soltanto fa, no, non parliamo di papattacci, quelli guai, quelli sì che ti danno fastidio. Ma i papattacci quando vai in campagna, mamma mia, quando scendevamo giù da una parte nostra, una cosa spaventosa, all'inizio non ti fanno, ma all'indomani inizi a grattare, tutto punti, micropunture fastidiose, mamma mia, quelli sì, se sei in pantaloncini corti che ti pungono le caviglie, i polpacci, ogni magnazzone, lo sai, vuol dire magnazzona in sostanza, e puoi mettere creme cortisoni per cercare di attenuarli. No, io sto cercando, adesso devo rimettere la cosa, la menta, io mettevo due piante, due vasetti di menta di due tonalità diverse, insetti non se ne avvicinava neanche uno, a casa mia, almeno da quella parte della casa. Ok, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo. Gianni sta ancora giocando, che gioco è, carte o cosa, computer? No, sta giocando. Oh, finalmente QRM basso, io in questa casa mia arrivano i segnali alti, ma anche il QRM è arrivato, quando sento a voi ti ascolto Santiago di 3, io mai, non esiste Santiago 3 da me, minimo devi arrivare a 7 per sentire. Ah, poi no, per andare con l'antenna che ho io, vabbè, è stata calcolata, messa bene, posizione ideale, tutto quanto, funziona che una meraviglia facendo le corna, proprio non posso dirgli niente alla Mantova, un po' rumorosa, dai, quando avevo la direttiva in orizzontale invece il rumore non ce n'era niente, era una cosa stranissima, tu non sentivi niente, per dire Santiago 1 era il QRM, perché sono tutti in verticale, però i segnali, per dire un segnale di 3 riuscivi a tirarlo fuori, pulito. E cambiando discorso, stanno vendendo, non qua, in continente, un, come si chiama, quello che hai preso tu, un Alicraft, però più recente, bellino, ma tu vedi quanto è bello, con una bella scala graduata però circolare, non orizzontale come la tua, 80 euro, ma bello veramente, gestito perfettamente, funzionale, funzionante qualsiasi prova, più la spedizione, 80 euro, ed è, se lo vedi, guarda, sembra un HF come coso, come trasmettitore, invece è un ricevitore, c'ha come si chiama, la scala graduata rotonda, grande, al centro. Beto. Ah, sì, ma è normale, naturalmente, devi andare sui 40 metri per sentire qualcosa di giorno, ma raramente, le broccate le devi sentire solo di giorno, di notte, ma anche non ascolti le francesi, le spagnole e qualche italiana riesci a prendere di giorno, ma hanno potenze, sono molto vicine per quello che prendi. Comunque l'ho ascoltata, mi ha mandato il video, complimenti, bellissima, bel suono ci aveva, e anche la 27, gli 11 metri riesci a ascoltare. Sì, no, non esiste qua le FM, non la usa nessuno. nessuno nelle bande HF, chi ce l'ha? Nessuno, perché sono tutti collegamenti a lunga distanza, uno usa normalmente le bande laterali o la M. Ok, comunque una bella radio, sono contento che l'hai presa, sarebbe stato un peccato, lo sai quanto tempo c'è? Un annetto c'è quella roba lì, sarebbe stato un peccato perderla. Se ripeto, a me c'ho altre cose per la testa, preferisco fare altre cose, se no me l'avrei presa correndo, era un affare con la radio. Ok, Riccardo, riprendi. Ehi, sono tornato. Oh Roberto, ti sentivo forte sul 13, sembravi che eri nello stesso canale. Non lo so, non vorrei che ci abbia qualche cosina di taratura col baracchino, bisognerebbe vederlo allora. Lo fa anche su con altri tipi di baracchino? No, però praticamente sentivo solo a te e gli altri no, perché forse sei forte, boh. Non lo so, vabbè, diciamo gli apparati col tempo vanno sempre riallineati, magari sarà leggermente aperto, troppo largo, per cui prende anche gli splatter, dai. Non è niente di preoccupante, comunque l'importante è che tu esca bene e che riceva bene il segnale. Dimmi una cosa, la 27 quindi l'hai ascoltata, Claudio? Sì, c'è un museo, quello di dottor Faeda, del notaio, quello ne ha 10.000, non 10.000, dai, qualche centinaio di radio, che ha fatto ogni anno, la mettono in mostra. Il notaio Faeda, quello che è morto, quello c'ha belle bei pizzi di radio, parliamo radio ricevitori, c'ha telegrafi, c'ha un po' di roba, belle radio, anche se qualcuna che c'ho io lui non ce l'aveva, quello che è morto. Una domanda, ma quindi il 27 ci hai ascoltato, anche a me hai ascoltato? Okay. Quando c'è tempo, un giorno fai la registrazione, io non mi sono mai sentito in valvola per vedere come mi sento, perché ho sentito le radio broadcasting che mi ha fatto sentire ieri, mi ha mandato il coso, il video bellissimo, proprio una bella piena, come il trio che c'ho io, quando ascolto con quel trio in valvola è un'altra musica, proprio ascolti la voce umana in un modo diverso rispetto ai transistor. Volevo sentire la mia voce ascoltata con un ricevitore a valvole, come si sentiva questa modulazione. Quando capita, un giorno facciamo delle prove. Ok, facciamo riprendere Riccardino, io rimango un paio di minuti ancora e poi vado via. Anch'io vi lascio perché domani si trabaja. No, scherzo, mi devo svegliare alle 4 che devo andare fuori sede a Fattada. Mi devo tagliare i capelli, un cespuglio sulla testa. E c'è sia Fattada alle 4 del mattino, chi te li taglia? Io qualcuno col coltello con la Fattada? No, praticamente perché ha aperto e subito hanno prenotato a Fattada, che non c'è un Cristo che va a farci capelli a Fattada, ed è pieno di prenotazioni. E così, intanto che mamma lavora, sto lì a non fare niente al computer, volevo comprarmi anche una pennina di quelle da 0,30, così posso fare anche il ricevitore in ufficio, e intanto perché alle 4 me li taglio i capelli, e così sto tutto il tempo facendo altro in ufficio, smanettando. Cioè alle 4 del mattino vai a tagliarti i capelli? No, l'appuntamento è alle 4 del pomeriggio, però mamma deve essere lì alle 6 del mattino per la timbratura, e quindi ci svegliamo alle 4. Cacchio, allora sei già in ritardo, ti come andare a riposarti, dai. Ok, portati il baracchino appresso, così magari la Fattada a fare dei bei collegamenti. Dai, anche io stacco adesso comunque, dai. Saluto a Claudio e a Gianni, è sempre un piacere ascoltarvi, belle conversazioni piacevoli, idem Riccardino e tutti gli altri amici, Fabio, non so se c'è ancora, quando si parla di argomenti tecnici è sempre interessante, dai. Io saluto a tutti, vado in QRT, ciao ciao. Ciao Roberto, alle prossime, anch'io stacco, come ho detto, ciao Gianni, ciao Claudio, altri eventuali in ascolto se mi sto dimenticando qualcuno, Master c'è ancora, boh, non mi ricordo, mi sono perso. E va bene, ciao a tutti, a domani. Kappa, rientro per salutare Riccardino e Roberto e niente, così sono anche rientrato, avanti chiodo. E avete parlato di due, dai, comunque saluti, li ho sentiti di sfuggita. Ciao Fabio di nuovo, ciao Claudio, ciao Gianni De Amuros e ciao anche Doppio Rumo se mi sta ascoltando. Ciao ciao Riccardino, a domani. Bene, ciao Fiodo, buon QRT, buon tutto, anzi buon QRX, da quanto ho capito, ci sentiamo sicuramente alle prossime. Sì, comunque è sempre un piacere, quando si fa un gruppetto così è sempre una cosa molto bella, viva la 27. Gianni, dai, ti devo chiedere una cosa, ci sei? Doppio Rumo. Luca, allora ricapitoliamo la ruota, sono io, poi c'è Fabio, c'è Master, c'è un VDQRM8, Loni, forse una tua antenna, bella ruota, me la giro da sola. Gira, gira. Gira la ruota. Tu non l'hai visto quella programma in TV di Cardi? Sei troppo piccolino, mi sa. Non l'hai visto, gira la ruota. Boh, allora non me ne ricordo neanche. Gira la ruota. Veramente buongiorno. Che immagine l'hai vista dei filmati vecchi? Me la giro io, Riccardo. Tanto già mi dorme. Non è che te sei per caso ha recuperato l'uccellino, no? Boh, non lo so. Sarà stoppato e sarà ancora con il tatto cercando di prenderlo. Gianni, ci sei o stai ancora chiappando il pappagallo? Perché Gianni ha preso l'uccello. Va bene, ciao Fabio, chiudo che devo portare il 430 dentro. Cappa, cappa, buon montaggio di stazione. Ci vediamo anche domani, da, se riesci a agganciare un baracco. Alle prossime, Riccardo. Ciao Fabio, e buonanotte da Bracco, Giovanni. Bella, Bracco. E allora, cosa stai combinando di bello? Lo sai, quando io c'ho tempo, lo sai cosa devo combinare. C'ho un quadro in mezzo alle scatole che devo in qualche maniera concludere oggi e domani, praticamente, no? Quindi poco tempo da... No, ero a Torrol, ma sono rientrato ieri notte, diciamo, no? Tra l'altro credo che hanno tentato di attivare Monterasu, R0, e poi ho tentato di collegarmi e mi hanno detto che manca qualcosa, riesco a citarlo, però diciamo non si ci può modulare, non si può parlare, mi sembra che Walter o Fabrizio devono concludere qualcosa per poterlo usare, diciamo, senza problemi. Ok, ti rilancio il micro. Capo Giova, sei in giro in paese a divertirti, perché non so cosa stai facendo. Io era l'ultima, però tu eri in tour a divertirti, eh. E altro di divertirmi. Abbiamo fatto uno spuntino con degli amici, ma me li reto, ho sfacchinato con un animale, perché diciamo che sto tagliando fieno nella campagna mia per evitare, per salvarla dal fuoco, perché in quelle zone ogni anno il fuoco in qualche maniera lo mettono e distrugge, dove passa il fuoco, glielo sai, distrugge tutto, e quindi finché mi è possibile a costo di crepare, ma la mia campagna me la devo salvare ogni anno. Mio figlio non c'è in continente, anche se la campagna le piace, a mio genero non gliene frega nulla, eccetera eccetera. Ok, gli altro c'è il canale 10. Ma guarda, quando ho capito praticamente sono rimasto solo, perché mi sono un attimo attentato, in QSO c'erano Gianni Doppio, Riccardino, Roberto Quadrato, e Chioda Lucinto. Poi sono entrato nel momento in cui stavano facendo il QRT contemporaneamente Riccardino e Roberto, e per salutarti Chiodo ha fatto QRX e Gianni non risponde. Mi sa che siamo su uno. Ciao Giova. Capa, chi sei? Gianni Doppio Rum. Gianni Doppio Rum? Capa. Capa, salutone. E io e Fabio siamo, mi intrattengo un po' a fare una chiacchierata con voi. E poi riprendo il trabacco, diciamo, ecco. E tutti gli altri sono ritirati. Roberto perché deve lavorare, Riccardino perché deve andare a Solove. Io ascoltate lo che fa molto volentieri mentre trabaccavo, diciamo, mentre lavoravo. Ok, ti lancio il micro, diciamo. Ehi, Giova. No, io mi sono allontanato perché mi devo fare la puntura e devo prendere le medicine, quindi mi sono allontanato un attimo, forse quando mi hanno chiamato mi hanno allontanato per quello, ma già sono un ascolto. Ok. Fabio, dimmi qualcosa di nuovo, quella specie di, come si chiama, ci hai messo le mani addosso o no? Allora, capito, non fate lo stesso, un'altra. Io andato proseguirei con una zavorra, una resistenza e ci butterei uno zenere per calargli la base ai due regolatori finali, così. Però mi sto studiando qualcosa di meno rosso, qualcosa di più raffinato, capito? Veramente c'è gamba tesa. E ho capo, ascolta, se vuoi, se proprio devi mettere le mani addosso, ti do anche, diciamo, una specie di smitter, così per leggere, diciamo, o il voltaggio oppure l'amperaggio, se glielo vuoi collegare, poi magari come si chiama già me lo faccio io, diciamo, la cassa e quelle robe lì, no? Vedi tu, se no, non è che ci tenga oltre un certo limite, oltre un, diciamo, se è possibile farlo, lo fai, se no pazienza. No, scappa, è possibile farlo, ma non ti preoccupare, questo strumento perché te ne do uno io. Molto carino, digitale, se gli fai la cassa, anche le alettine per fissarlo, ed è una cosa molto carina. La verità è che l'avrei voluto regolare in qualche modo, capito? In maniera tale da poterlo tenere dai 12 ai 13,8, così, da avere quel range di frequenza, zavorrando una parte per vedere un attimino. Comunque non sono molto certo degli amperi che può dare quella cosa, Io l'ho visto bene, alcune cose possono tenere anche 5-6 amperi, ma ce ne sono altre che secondo me se cioccano 3 amperi è anche troppo. Vabbè, quello che può tenere, non ci sono problemi, no? Per quanto riguarda voi, ma tu quell'apparecchio dovevi fare con quegli strumenti che ti ho dato, l'hai fatti o no? No, negativo, non l'ho fatto perché è una cosa un po' complessa e poi ero fuori, però ho scoperto da dove è uscito quello strumento. Indovina un po', Giova, di che cos'era? Non so, io penso che era come si chiama, audio, o audio o video, Era di pneumatiche della Sony, era di pneumatiche di 900 della Sony. Caso strano, io ce li ho ancora pneumatici, però strumenti non ce ne sono. Strumenti due ne ho avuto, ma in nessuno di questi c'erano strumenti, boh. Ah, vabbè, le mie ci sono gli strumenti e vabbè, il mio era il top di gamma al tempo, era il classico, era Rai, la Rai lavorava con quelli, capito? Perché costavano, beh, un pneumatico costava 8 milioni, fatti i conti, cambiare che sia una coppia di pneumatici costava fino agli 90 ancora 5 milioni. Solo le testine, cambiate solo le testine. E il mio matic ha gli strumenti come quello, uguale. Addirittura. Ok, non voglio annoiare all'amico Gianni. Gianni, vieni avanti, dai. Ma mi annoiano, a me mi piacciono queste cose, ascolto e vi faccio una cultura. Tanto c'è sempre da imparare. Oh Gianni, dimmi. Io sono ancora in Asia per il tuo uccello. Mi sembra fatto. Mi ho fatto tutto il giro anche stasera, niente da fare. Sto cercando, sono entrato col cane per vedere se sentiva l'odore. Niente da fare. Ha sentito l'odore ma era di altri uccelli, erano passerutti. Infatti sono volati dall'albero. Infatti stavo sperando che ci fosse anche lui in mezzo, ho guardato ma non c'era. Vabbè, pazienza, cosa devi fare? Me ne ho comprato altri due stamattina, due maschi. Vabbè, guarda, speriamo che sia entrato qualche finestra, capito? O che se l'ha trovato qualcuno e se l'ha preso, o il gatto, ci sono i gatti lì, c'è gente che li dà da mangiare, i gatti e le cornacchie. C'è con le cornacchie dalle 4 di mattina, mamma mia, perché a volte fanno scendere i figli per imparare a volare, no? E se non puoi avvicinarti manco a prendere la macchina perché sennò ti vengono addosso le cornacchie. Cazzo, ma guarda che qualche giorno prendo la carabina, mi metto davanti alla finestra e li tiro. No, sì, è piena. Anche la mattina presto le sento. Infatti era lì, dimmi. C'ho un occhio aperto, un occhio chiuso e sento loro che fanno questi rumoracci di merda. Ma che mi ricordassi io, 20 anni fa non c'erano questi cornacchi a Sassari. Da quando è che ci sono? Già ci sono da quel po'. Poi c'è la gente che dà da mangiare i gatti, capito? E loro vanno e si mangiano la roba dei gatti, quindi si moltiplicano per quello, perché c'hanno da mangiare tranquillamente, prima dovevano cercarsi. L'altro giorno c'era uno di quei tiriguri, ce l'hai presente tiriguri, io non lo so come si chiama in italiano, che praticamente sembra una biscia, però è come la lucertola. E praticamente praticamente hanno preso questo tiriguro, preso, l'ha vista, l'ha abbagliata e gliel'ha fatto mollare. L'ha mollata, adesso si metteva a giocare con le zampe, senza farli male, però lo faceva correre con le zampe, qui andava per acchiapparlo. E lei era da sopra questo palo che cominciava a qua, e detto, io preso prima che ti tiri giù di questa cornacchia. Come ci siamo spostati, ha preso questo tiriguro, se l'ha portato sopra un furgone e se lo stava tutto mangiando, tutto schiacciando, facendo. Tu, cornacchia, non lo so, tu, non mi piace loro per niente. Sì, in campagna c'erano anche troppe. Ricordate che è uno degli uccelli più intelligenti che esista. Allora ti dico che in campagna, no? Io quando mi è capitato le ho sparate anche, no? E conoscevano anche la mia macchina. Comunque cosa è successo praticamente? Finché io camminavo in macchina, loro giravano intorno, erano dentro la campagna tranquilli, e mi stavano come a dire, ma quello scemunito sta arrivando, ma finché rimane in macchina siamo tranquilli che non ci spara. Invece un giorno ho detto guida tu la macchina, sono sceso dalla macchina col fucile a 5 colpi, ta, ta, ta, ta, e ne ho battuto 3-4, no? Però due che sono riusciti a scappare, no? Io come le sentissi, ma guarda quel disgraziato, ci ha sparato da dentro la macchina, delinquente, ma non è di tutti i colori, però non ci sono più tornati in campagna, ma si capisce chi ci andate, sono furbe, molto furbe, diciamo che forse l'uccello più intelligente che esista, facile da ammaestrare pure, a dirti la verità, eh. Io diciamo non è che gli animali li voglio male, ma quando ti fanno danno, ma azione ti devi in qualche maniera difendere. E appunto, no? Altro animale intelligente, diciamo, oltre la cornacchia, diciamo anche l'attaccola pure è facile da ammaestrare. Ok, ti lancio il micro, passa magari a Gianni. Ehi, già, mi sa che ti conviene fare una pasta a Giovanni e portarti anche la tua. No, io già ce l'ho a casa, già ce l'ho l'arma a casa, non c'è problema, c'ho carabine di precisione, eccetera. Già mi basta quello, mi metto un paio di funghetti e via. Fate così, uno guidando, l'altro sparando. Io ho quella da precisione col con la portata ottica raggiunta violino. Praticamente ti possono assoldare come cecchino. Esatto, anche di notte puoi sparare perché è illuminato. Fatti ricordi, se vuole il cornacchia magari nel buio si muove, non c'è problema. Oh, ma ti dico la verità, sempre nella custodia, nell'armadio, qualche volta la uso per fare un po' di tirassegno, ma non la uso più di tanto, non l'ho mai usata per gli animali. Mentre invece so di qualcuno che spara i tuppi di notte, c'ha proprio la cosa ottica come il mio, e ha raggiunto a violetti, quando vedi i tuppi che passano sopra, ci sono dei garage sotto casa sua, li spara e la mattina trova tutti i tuppi morti. Sai, io ho un'amica che è campionessa italiana di nostro quale specialità col fucile, campionessa italiana, ma tipo che il secondo proprio era giù di punti, roba del genere, questa è furiosa, c'ha anche gli occhiali, ma c'ha una mira. Ah, forse tira più a te. Non so se tira più a te o che cosa, so che va spesso allenato al poligono e niente, c'è tutta una serie di cose, eccetera, armi di precisione, strutture strane, omologate, regolamenti, insomma, una storia abbastanza complicata, lei è appassionatissima, ti ripeto, campionessa italiana. E anche io ho un'amica che spara molto bene, bravissima, c'ha una mira che ogni dì non era un po' agosa. Io già mi arrangio bene, io metto il tirassegno nel terrazzo, me ne vado in fondo al salone e tiro così e ne faccio di cinque. Lo sai che a me a Masterland non mi volevano più? Cosa? A Masterland non mi volevano più, si è avvicinata la signora, un giorno mi ha fatto la città, io se vuoi ti regalo pure questo e quest'altro, ti puoi divertire, però fai il favore, non sai più questi scherzi, va? grosso di quelli grandi per andarmene, perché mi colpivo tutti i gessetti, tutto quanto, palloncini, tutto quanto pigliato. E alla fine mi ha detto, dimmi che cosa vuoi, perché li stanno togliendo tutto qua. E facevo così, arrivato, 5.000 lire, mi dava tutto, cercava sempre di darmi i fucili più strani, quelli che tiravano un po' a destra, che tiravano un po' sopra, perché mi avevano conoscevano. 5.000 lire, prendevo, lo sbaglio per il primo tiro, perché il fucile era storto, e da lì ci prendevo tutto. Mi davano sempre qualche peluche, roba grande, scendevo la scala, più bella che passava, glielo regalavo. Te lo immaginare. No, io l'ho portato a casa, dico la verità. Infatti i miei figli ci avevano orsacchiotti, di tutti di più, il cuore, con la scritta ti amo, tutte queste cose qua. Ma già mi divertivo anch'io, mi piace anche a me sparare con... Però sempre... fare il tiro a segno là. Sono più di 20 anni che non tocco un'arma, se devo essere sincero non mi piacciono, mi divertivo così perché conoscevo queste luci e le vedevi queste ragazze con questi così giganteschi.